Welcome, administrator. Medium is ready to check in. Bentornati a Medium, il podcast su Netrunner. Questo è Hostage e io sono Dennis. Nella puntata di oggi avremmo dovuto avere il paddo, ma facciamo una puntata speciale, prima di quella con il paddo che speriamo nel momento in cui la pubblicheremo abbia risolto i problemi sul sito di Netrunner, che avrete sentito che è stato chiuso come dominio, comunque non è più accessibile. E quindi in questa puntata speciale abbiamo con noi una persona che ha fatto benino, abbastanza bene negli ultimi tornei di Netrunner, nei primi tornei di Netrunner di questo 2014-2015. Ovvero, come ti presento, Guaina? Sì, va benissimo Guaina. Va benissimo Guaina, ti conoscono così. No, Guaina, insomma, com'è andato l'ultimo torneo che hai fatto? L'ultimo torneo è andato bene, è andato molto liscio, è stato sinceramente quello un po' più semplice per i matchup che ho incontrato. E sei arrivato? Primo. Ah, e il penultimo torneo che hai fatto? Credo sia arrivato primo anche in quello. E il terzultimo torneo che hai fatto? La risposta credo sia la stessa. E il quarto ultimo però non c'è, quindi... Il quarto ultimo sono arrivato quinto. Ah, c'è anche il quarto ultimo, quindi in tutto quanti ne hai disputati? 4. Va bene, quindi su 4 tornei, 3 li abbiamo vinti e in uno siamo arrivati quinti. Sì. Non è male come cosa. Sei il runner del momento, quindi era interessante sentirti, era interessante un tuo racconto su questi ultimi tornei, perché... Insomma, su Facebook sei stato pubblicizzato come ancora Guaina quando hai vinto l'ultimo, mi pare da Baralai, quindi a Bologna. Sì. Beh, raccontaci questo tuo ingresso nella scena, perché fino a pochi mesi fa non... Sì, ho iniziato a giocare da poco, ho conosciuto Netrunner nel mio negozio di fiducia Games Academy e... A Desenzano, ok. E da lì ho iniziato un po' a giocare, non siamo in molti a giocare, siamo 4 o 5 lì, adesso sto cercando di evangelizzare il gioco, ma ho iniziato, poi ho sentito che c'era il torneo a Verona, io sono guardato un po' da Steam, un po' di liste, ho visto un po' di archetipi come giravano, e quindi mi sono deciso di montarmi Grendel, perché è uno stile molto aggressivo come corporazione, non sta seduta sugli allori a aspettare il momento opportuno, prende il momento e poi Anarch era l'unico runner sinceramente che riuscivo a far girare, però tutti gli Anarch al momento hanno problemi e sto provando a farli girare anche altri e hanno sempre i soliti problemi di pescata, soldi. Sì, di economia è un problema purtroppo. Se partono che... non li fermi, perché hanno veramente delle carte potenti nel Medium, Nervagen, Demolition Run, ma se no sono delle nutrie. Quindi invece Noise insomma riesce a funzionare nonostante quello. E quindi sei andato a Verona con questi due mazzi. Sì, Noise era ancora Upstalk, quindi era un po' più debole per il fatto che avevo i Gormandrip invece delle Keish, però sinceramente come mi è piaciuto molto come prestazione, alla fine quinto posto al primo torneo onesto, non potevo lamentarmi e non credevo neanche io di andare così in alto sinceramente. Anche perché a Verona di solito, io non ci sono mai andato a questi tornei che organizzano lì, mi pare ai giochi dei grandi si chiami. Sì, esatto. E però di solito le persone che ci vanno, insomma, leggo i nomi, li conosco, so che sono... cioè della gente molto capace, non è un torneo improvvisato, quindi il quinto posto vale tantissimo. E poi... E poi sono andato avanti, ho sentito che c'erano i tornei, c'erano tutti e tre in fila, mi pare, che fosse Verona, Abbiategrasso, Bologna, una cosa del genere. E c'erano riusciti io e il mio gruppo di Desenzano a venire a tutti e tre, cioè Bologna sono andato solo io in realtà, però. E fatto le due modifiche ai mazzi, pochissimo, veramente due carte, e però lì ho giocato anche meglio... Corporazione, se devo essere onesto, ho preso molto più la mano con il Grendel e con i tempi, quello l'ho notato nei vari tornei, Però lì sono andati estremamente bene. Match più difficile, sinceramente, è stato quello di Abbiate Grasso contro Black Pix. Che credo dovrebbe essere su YouTube per quando esce questo podcast, forse. Speriamo che il primo video l'abbiamo visto, il secondo no, non l'ho ancora visto se ci sia, ma magari potrebbe uscire. Sì. E per il resto è andata così, sono entrato nella scena e il gioco è fantastico, è 7 volte meglio di qualunque altro gioco di carte che ho mai giocato. Che bello che tu dica questo. E ne ho giocati a tanti, cioè sono passato da Yugi a Magic a di tutto e di più. Giocherei anche a Games of Thrones, ma non ho community a Desenzano per giocarci, purtroppo. Star Wars l'hai provato? Ah no, quel gioco no. Anch'io non è ho fondi limitati. Mi dicono che sia più o meno sullo stesso stile del Trono di Spade, quindi Netrunner si pone in un cerchio diverso, ecco, ti dà più possibilità, ti dà diverse angolazioni di gioco, diverse tecniche, quindi appoggio la tua scelta. Più che altro Netrunner ha la bellezza del che non sai mai cosa aspettarti. Ci sono tantissime identità, tantissimi playstyle. Adesso sto cercando anche io di montare altri mazzi con altri playstyle, come Nazir, secondo me è un dormiente, uscirà fuori. Ah, Nazir è fantastico, se uno lo sa usare bene, secondo me è... Secondo me Nazir sta aspettando. Prima o poi qualcuno riuscirà a trovare il Nazir giusto e vincerà tutti i tornei. Nella prossima puntata col Paddo ne parliamo un po', perché lui riesce a farlo girare molto bene, purtroppo non partecipa ai tornei, ma Nazir, non voglio dare un'idea a tutti, ma provate, perché secondo me non te lo aspetti come corporazione, quindi i primi che usano Nazir il torneo sono in grado di vincerlo, secondo me. È un playstyle difficile a giocarci contro, perché se Rezzi è male, se non Rezzi è male, quindi... Un problema che può aver Nazir è che allunghi la partita, sì, perché ci sono molti più ragionamenti sia da parte tua che dall'avversario, e quindi rischi di perderti la seconda partita e ti stanchi prima nei turni di Svizzera. In realtà, da come lo sto creando io, è impostato molto su vincere la partita nel giro di 15 minuti, ancora ragionamenti o no, perché oltre quella soglia secondo me perde molto dell'effetto. Quindi devi giocare tutte carte da early game e cercare di dominarlo. Infatti l'ho definito varie volte, è un rosso padano, perché è uno shaper, è verde, ma in realtà vuole giocare le carte rosse, sì, le carte Anarch. E usciranno poi anche le prime corp che impareranno come difendersi da Nazir, poi... È il meta, è bello quando cambia, quando arriva qualcuno di bravo, magari come hai dimostrato di essere tu, che ci propone qualcosa di nuovo e riesce a portarlo in alto, dopo la gente inizia a seguire questo mazzo, questi mazzi. Anche Grendel era un po' che, insomma, si vedeva, ma ai primi posti io non me lo ricordo così frequentemente. Wayland sì, come fazione, ma Grendel un po' meno. Ti piace di più delle altre identità Wayland? Sinceramente, anche conoscendo le prossime identità che usciranno, non so se riuscirò a staccarmi da Grendel, perché quei 10 crediti iniziali ti aprono una possibilità di azione infinita, perché con 10 crediti puoi fare un sacco di giocate abbastanza rischiose, però ti apri nei primi 3 turni meno una scoring window, riesci ad aprirla anche proprio così, solo sulla schiena di quei 10 crediti. È molto diverso dall'identità criminal di Andromeda, perché sebbene uno possa pensare che 9 carte siano, sì, sono un vantaggio, ma sono vantaggi diversi, secondo me. Non so se tu sarai d'accordo. Diciamo che Grendel si può paragonare lontanamente a Next, con la differenza che Next hai una scelta sola da fare e basi la tua partita su quello. Sì, Next è un altro mazzo che sto cercando di far girare. Next è bellissimo. Il problema di Next è che non ha le carte Wayland e quindi non ti può far male in un certo senso, e sai già che strategia va a parare, ovvero difendersi con questi ghiaccioni. Però con Next tu sai che se ti gira normalmente al secondo turno 2 punti li hai già portati a casa, perché sì, ti basta avere una 3-2, un paio di ghiacci piccolini, ti fai il tuo server tranquillo. Esatto. Con Grund hai varie possibilità. No, dimmi, stavi dicendo? No, è esattamente quello che dicevi te. Nel giro di 2 turni con Next devi aver fatto un beta test o un Vitruvius o un Esatto. profiteering. E poi scegli tu se il beta test rischiarlo o meno. Devi sempre rischiarlo. C'hai 20 ghiacci in quel mazzo, se non escono. Ma io gioco di solito un Next con 27 ghiacci. 27 è un po' 20, eccessivo. 27, ho praticamente di tutto il repertorio. Adesso più ne escono, più magari posso ampliare la mia scelta, togliere uno, mettere l'altro. E lo gioco senza Next, cioè senza ghiacci Next. Oddio, senza ghiacci next. Infatti non ne vinco tante di partite, però mi piace molto come idea di stare tranquilli, proteggersi, fare il proprio gioco. Se l'altro è bravo e hai soldi, vieni. Se non hai soldi e non hai il rig completo, stai poi lì dove sei. Grundle invece tu lo giochi in maniera più offensiva, insomma, possiamo dirlo? Io non Sì. so che mazzo, cioè l'ho visto ma non me lo ricordo esattamente, tanto ormai l'hanno È visto sì, è come un gioco. archetipo di super modernism classico, cioè che a seconda da chi sono posso anche partire con installo su remoto un ghiaccio, installo un'agenda e l'avanto, turno 1 questo, a seconda di chi ho contro, tipo contro Anarch, un play abbastanza buono, perché sì, possono farti un siphon, ma hai 10 crediti, quindi Sì. cioè, te ne possono togliere, però dopo si devono staggare, se no rischiano la morte. E nel compenso te ti puoi chiudere dietro un geothermal fracking o un Atlas che ti porta ancora avanti. È un play rischioso perché rischi di perderci, però a volte lo faccio. Devi giocare aggressivo, devi forzare il runner a o giocare in maniera molto aggressiva e rischiare quindi il flatline da tagliole o scissor scorched o cose simili, oppure stare indietro, però se stai indietro io tiro fuori agende continuamente. Infatti è per quello che ho avuto una vita facile a Bologna, perché c'erano contratto due noise mill, credo, cioè quelli totalmente mill con Hades Shard, e mi sono messo dietro un enigma a chiudere agende una dietro l'altra, senza assolutamente problemi, perché essendo che ci sono poche, non faranno sostanzialmente, non devo neanche spendere soldi, posso solo. Sono saltato sull'Atlas Train perché facevo Atlas e chiamavo Atlas. È un mazzo abbastanza adattabile in base all'avversario, o meglio, sei un giocatore adattabile, perché poi è quello, insomma, è come imposti tu la giocata del mazzo. Non mi ricordo se nella tua lista del mazzo Seasource fosse in 1x, mi sembra, in 1x, Sì, avendo solo 1x. 10 influenze, gioco 3 tagliole, 2 Jackson e una Seasource. Infatti quello è un limite che Grundle ha. Io volevo montare, ho montato pochi giorni fa quell'identità basandola sul trash di un rompighiaccio sentinella, cioè nel senso ho tutti i ghiacci sentinella e poi ho carte che trashano quel tipo di i rompighiaccio dell'avversario, però 10 di influenza sono abbastanza pochi, insomma, non so perché ne abbiamo dati 10, insomma. Perché parti con 10 crediti? Quello è vero, però almeno Certo. 12, cavolo. Se pensiamo che l'ultima identità NBN ne ha 17, Sì, in effetti quello insomma. lì è piuttosto insano. Cioè, non so cosa avevamo bevuto quando ha 17 influenze. Perché l'abilità è forte, Eh è sì. ok, però 17 influenze è regalato. Non credo neanche le usino tutte, quello è il bello. Credo che l'abilità sia più o meno simile a quella che ti fa tenere una carta in mano in più, insomma, Io ti dà un vantaggio. la paragonerei più a quella di Kate o di HP Sì. Engineering the Future, perché ti regala un click, ti sta Esatto. regalando click sostanzialmente a turno. E sì, lì hanno, secondo me 17 era un po' esagerato. Però C'era, appunto, però quella che ti fa tenere una carta in più in mano mi pare sia 12 sì, NBN. E quella però sono anche 40 17. carte. Sì, è vero, è un altro vantaggio. Però 17, insomma. Grundle, è difficile scegliere cosa metterci. Vabbè, che più escono carte e più hai. In realtà non trovo la mancanza di altre carte in quel mazzo, dal punto di vista di influenze, proprio zero, perché Finché magari non uscirà una migliore di quelle che già conosci. sì, esatto, al massimo quello, però il fatto è che le tagliole devi metterle, perché devi dare qualcosa per punire il runner quando lasci Arryn scoperto. Mentre Jackson Howard, io ho visto un sacco di gente un po' di tempo fa che giocava quella a zero, come si chiama? Segnalazione anonima, sempre Sì. dell'NBN. Però secondo me avere Jackson, non per mischiare tanto le agende, ma tanto per mischiare i power shutdown e le tagliole, è la manna dal cielo. Ma Jackson a momenti, secondo me, lo vedremo anche nei mazzi runner. Cioè, è così importante. Se potessi risolvere, se avessi una carta del genere nei runner, Anarch dominerebbe, perché un click peschi due. Perché sì, c'è Wildside, però Wildside sei obbligato a farlo, che è quella brutta cosa. Ma la sgravata di Jackson, sgravata per modo di dire, perché comunque è una carta che fa girare bene i mazzi, quindi non rovina poi così il gioco, anche se è troppo forte, è il fatto che la sua abilità tu la possa usare nel turno del runner. Sì, esatto. Lui viene lì e ha messo le 5 carte a posto con un indexing, bene, adesso te le rimescolo tutte, esatto, e vieni a rifarla. Oppure vuoi trasciarmi Jackson? No, è installato, prima di trasciarmelo io mi rimescolo 3 carte. Sì, sì. Fosse nel proprio turno sarebbe stata più equilibrata. È comunque una carta ottima che io non ho mai bestemmiato quando l'ho vista contro. Diverte. Sì, è bilanciata, perché non rovina il gioco, ma aiuta un sacco la corporazione anche quando hai un overflow di agende o una cosa del genere, ti aiuta. È bilanciata, è una delle migliori carte che hanno stampato, probabilmente. Riguardo ai ghiacci, invece, su cosa ti orienti maggiormente in Grendel e cosa vorresti invece provare poi in futuro, se vuoi cambiare strategia? Per esempio, come ti ho suggerito prima, ghiacci come Grim, che fanno un 3. Grim ne ho già 3 dentro. Ecco, perfetto. No, gioco sostanzialmente buona parte dei ghiacci hanno Enderun. Cioè, gli unici che non hanno Enderun sono i Grim, perché il loro scopo è eliminare dei programmi. E poi vabbè, ci sono gli arcieri. Mi baso totalmente quasi totalmente sulle barriere. Infatti, se il Corroder è un bersaglio facile per il Power Shutdown, dato che è anche in quello, sì, spot da 2 in cui buona parte delle console non vengono toccate perché costano 3 o più. E nel caso da 1 sono sempre contento di ammazzare un data sucker, un clone chip. Sì, anche perché di più cosa c'è? I sentinella costano di solito di più, i code gate anche, quindi sì, il corroder è... Sì, esatto. È fatto, e la forza del Grim, anche se da una bad pub, è che buona parte dei sentry breaker in uso sono estremamente inefficienti, che sono Femme Fatale, ad esempio. Sì. Mimic è un ottimo breaker, però ha bisogno del data sucker per funzionare, e anche lì ha bisogno di 2 token per rompere un Grim, quindi, e lo sharpshooter è un one shot, quindi sì. Quindi in ogni caso, se tu il Grim lo vuoi passare, devi spendere. Sì, ti dà, esatto, il credito. La sua bad publicity è come se ti dicesse: adesso ogni volta che passi Grim ti sconto il Trash One Program, se vuoi, però il 5 di forza in, esatto, qualche modo me li devi pagare. Sì, è un'ottima carta anche Grim. E sugli Enderun sono pienamente d'accordo. NBN non l'hai mai provato col tag? NBN Tag and Bag è un bel mazzo, diverrà sempre più forte man mano andiamo avanti, perché con Menant e con le current runner che fanno veramente schifo. Detto proprio chiaramente, c'è l'unica giocabile Net Celebrity, anche quella lì è, ne tengo un paio giusto per eliminare le current della corporazione. Non è male Net Celebrity. Sì, però fatto che Menant è veramente forte, quindi vedremo NBN Tag and Bag sempre più. Proprio c'è un mazzo forte, però non mi piace perché è molto stata rilevata. Proprio una strategia, in sostanza, fare le agende. Se vuoi andare proprio tag and bag, non puoi fare le agende, non hai gli astro dentro, almeno non hai tutta la combo, perché hai bisogno della restructured data pool per troppe cose. Cioè, per ridurre il numero di agende nel mazzo, che è una 5x3, e sia perché se la fai puoi iniziare trace a caso contro il runner, che è una cosa piuttosto divertente. Però ha proprio solo una mentalità. Poi c'è da dire che a Bologna ci ho perso, perché non mi aspettavo tag and bag, schiantato di secondo turno. Il tag and bag girava tanto fino a qualche tempo fa, adesso magari ci si sta orientando su qualcosa di più disomogeneo. Si cambia spesso, si cambia tanto, ed è molto più bello così. Significa che non esiste un solo mazzo, una sola tipologia che ci possa portare alla vittoria. Anzi, ricordo che Costa, non so se ci hai mai giocato Riccardo, era riuscito a creare assieme al pad un mazzo Wizard che ha vinto a Reggio qualche mese fa, e Wizard fino a quel momento era l'ultimo runner degli ultimi, e invece ha costruito una cosa ottima e Wizard ha funzionato. Forse sto giocato, faccio schifo con i nomi e le facce, lo dico proprio subito. Sì, vabbè, sei all'inizio, devi conoscerci tutti, esatto. Devi batterci tutti, quindi no, scherzo, speriamo di no, no, insomma, adesso vediamo. E dal lato runner invece hai mantenuto lo stesso mazzo più o meno con alcuni cambiamenti per tutti e tre e quattro i tornei o...? C'è più o meno lo stesso, ho cambiato solo da Verona perché non avevo Space Between, quindi ho inserito i David e le Keish. Cioè, a dire che il David l'ho usato credo una volta da quando sono dentro, non solo in torneo, proprio in tutte le partite che ho fatto. Ma sai, David a leggerlo è una carta particolare, perché a leggerlo sembra molto forte, poi in realtà anch'io quando l'ho giocato o me lo sono trovato contro non l'ho né utilizzato tanto e né subito molto, quindi... Esatto. Però è una carta che non puoi non avere, secondo me, perché se trovi davanti ghiacci come un toolboot o qualcosa di grosso, non li passi. O anche trovi davanti dei Grim, possono dar fastidio, Davide lo rompe gratis, che è una cosa piuttosto simpatica. È comunque molto bilanciata, perché anche quella esatto. È usa e getta, quindi sì. Finito il suo effetto. C'è da dire che non ho più visto un toolboot da quando ho David dentro, scomparso. Ma questa è la regge di Murphy, quindi non devi sì. preoccupartene. No, il toolboot rimane uno dei ghiacci più forti del gioco, assieme ad Archer, che hai citato prima, e assieme al 60-70% delle carte del set base, che sì. rimarranno, perché fondi speculativi, hedge fund, come li vuoi chiamare, la tagliola, lo stesso Archer, che secondo me è il più forte ancora oggi in giro, rimarranno penso per sempre usate come carte sì. fondamentali. Li vedremo sempre ovunque, e troppo quindi, forti. E per quindi per i runner non stai pensando di cambiare qualcosa? Sto pensando, ma il problema è che quando creo un mazzo guardo il righe e dico questo non può vincere. Il problema è che dopo ho pensato ok, adesso vediamo con il mio noise, perché se il mio noise sta funzionando vuol dire che il rig è buono, l'ho guardato e ho detto ma questo come faccio a vincere con questo rig? Perché quindi ho deciso che devo testarli, sto provando varie cose, come ho detto sto provando Nazir, sto provando Quetzal e sto provando a montare qualche stealth coso, stealth kit mi piace di più di stealth kit sinceramente. Sai, Quetzal a me non è che convinca tantissimo, è come... Insomma, se sono, può essere una di quelle classiche carte, poi smentitemi perché mi piace quando mi smentite, perché come dico sempre io ne so pochissimo, ai tornei faccio schifo, le carte non le ho tutte perché gli ultimi due datapack li devo ancora prendere, non so tutto, quindi smentitemi perché ne sapete più di me. Dicevo, mi sembra una di quelle classiche carte che a leggerle ti sembrano forti, ma in realtà poi il loro effetto è bilanciato, perché... Non è che poi in partita ti pesano tantissimo. Tu hai già provato questa? Non l'ho ancora provato, ma secondo me è un effetto che, su cui devi basare la partita, ma non nel senso giocare i 3, eccetera, perché sì, i 3 è bello e sinergizza bene con l'abilità, però parliamoci chiaro, di barriere con subroutine multiple si vede Eli, che puoi cliccarci attraverso, volendo. Vediamo che c'è Live, che lo gioco solo io in uno per ora ho visto, neanche in tre, in uno. C'è una delle mie carte preferite per cui tutti mi prendono in giro, volendo, cioè il Tyrant. In Tennin è forte, però è anche lì, è in Tennin, è un matchup in cui sì, lo potresti sì. trovare. Lo so. E quello è il problema, cioè la cosa forte di Quetzal, c'è che anche può entrare facilmente in tutti i server nei primi turni, visto che buona parte delle Enderun sono sulle barriere. Quindi anche lì devi riuscire ad avere un early game estremamente forte e non avere transizione. Quella è la cosa, cioè andare nel late game puoi raccattare che sai di aver perso. Però anche lì è difficile trovare un equilibrio per cui avere un early game dominante sempre, soprattutto perché siamo in Anarch, stiamo parlando di un mazzo che va molto sul caso e sulla tua pescata. Inject aiuta, ma anche lì malligo ogni mano che non ho inject, in sostanza, però anche lì non è una certezza, quello è il problema. Poi dipende sempre chi hai di fronte, perché ti becchi di fronte Jinteki, 9 esatto. volte su 10 non te ne fai niente di superare il suo end run, e quindi è come se giocassi col testo vuoto. Questo però poi vale per tutti i sì, run, esatto. Quindi... Però contro Jinteki hai il vantaggio che hai, essendo tutte carte forti all'inizio della partita, dovresti riuscire a smontarlo facilmente. è uno dei migliori matchup per un mazzo del genere, impostato come lo sto impostando io. Perché sì, puoi avere quello che vuoi, ma se ho un multi-access del genere o cose simili, non mi importa. Io entro e non puoi fare nulla per fermarmi e vedo tutte le agende che voglio quando voglio. Sì, anche perché un Jinteki senza soldi, se tu riesci a, esatto, a farglieli calare, cosa ti può fare? Ti può fare un danno con Shock, credo, e la nulla sua identity. E la sua identity. Devi solo stare attento alle fetale lì in giro e basta, tenerti la mano piena, però... Oppure sì, stare attento che non ci siano già due o tre carte piazzate con avanzamenti che non riesci ad andare a vedere perché hai finito i click, ti rimane una carta in mano, magari due di quelle sono agende da due, però o anche un Ronin. Sì, e beh, il Ronin Ronin è abbastanza pesante. Sì, dipende molto cosa ti trovi di fronte, cosa non ti trovi di fronte. E quindi Runner mantieni Anarch per ora. Anarch è la mia fazione, non credo ci uscirò tanto presto, se proprio potrei provare Nazir, appunto. È l'unico che mi piace delle altre fazioni, soprattutto perché ho provato a giocare Criminal e non riesco a vincere con Criminal in nessuna maniera, non capisco cosa deve fare. Guadagnare soldi. Quello riesco a farlo, benissimo. Il problema è che dopo non so cosa fare. Quello è il mio problema. I Criminal sono un po' più diretti, insomma, hanno magari meno... mettono in difficoltà proprio la corporazione sulle gambe, credo, rubano, lasciano senza soldi, sono in grado di entrare un po' ovunque. Gli Anarch hanno più possibilità, secondo me, tutte meno efficienti, magari, però combinate... Sì, no, le winning condition degli Anarch sono le migliori del gioco. Anche secondo me. Però il problema è che la loro economy e la loro pescata è la peggiore del gioco. Quindi... Ma è giusto sia così. Insomma, sì. Sennò... Adesso vedremo se poi prenderà piede anche quella current che delle corporazioni, del lato corp, che dice che il testo d'identità del runner è vuoto. No. Dici di no? Purtroppo con Andromeda che è ancora molto forte, con Kate che è ancora molto forte, contro Noise è molto forte quella current. Sì. Quindi se Noise prenderà una proprio prevalenza della serie che metà dei mazzi del torneo saranno Noise, o quella carta lì diverrà forte. Ma se no è una carta bianca come il testo del runner, perché la fai contro Andromeda, sì. Kate è perfetta come esempio, perché la sua abilità è fortissima, ma se gliela togli sopravvive lo stesso, anche esatto. Uno di Link mi pare, quindi Kate rimarrà per questo una delle più forti, perché può sopravvivere anche senza, è verde, invece le altre, dimmi. Che secondo me Kate e Andromeda sono i runner più stabili del gioco, e per cui avranno sempre uno spazio nella scena di alto livello. Perché pescare 9 carte è una cosa, è un vantaggio troppo ampio, e Kate è uno shaper, quindi ha accesso alle carte shaper, ha un'abilità che è più o meno come Engineering the Future, che era secondo me l'abilità più forte del gioco per ora. Assolutamente, sono d'accordo su tutto, tu in pochi mesi hai già imparato quello che io ho dovuto studiare per anni, quindi va bene. Adesso, prima di farti parlare un'ultima volta con un paio di ultime domande, la solita canonica pausa, perché parlando di Grendel, vediamo se riesco a collegarlo a un pezzo che è uscito proprio in questo periodo. Grendel mi fa venire in mente sempre questo proprietario, ovvero Wayland, non mi ricordo se si chiami Jack Wayland. Si chiama Jack Wayland, il cui nome mi pare sia stato tratto dalla serie Alien, anche se non ci sono altri collegamenti, perché anche in Alien c'era la Wayland Yutani, una cosa del genere. Niente, mi viene da pensare questo Wayland che a fine serata, a fine giornata, dopo aver distrutto, maciullato, venduto, rapinato con mezzi leciti o barra illeciti, torna a casa, si guarda allo specchio e fa quello che fa in un certo senso Edward Norton nella 25esima ora, non so se l'hai visto, se ce l'hai presente. No, purtroppo no. È un gran film di Spike Lee in cui Edward Norton si mette davanti allo specchio e manda a fanculo tutto il resto, quando in realtà poi alla fine del monologo è lo specchio a mandarlo a fanculo per aver buttato via in un certo senso la propria vita. E Wayne come va a dormire, col senso di colpa o no? Questa è la domanda che mi faccio, e quindi vorrei sentire la voce che sente Jack Wayland di notte, mentre sta andando a dormire, dopo aver commesso tutti i propri crimini più o meno leciti, e quindi ci sentiamo Sleep Like a Baby Tonight degli U2. Dimostrato a Irene che i due possono anche fare cose non troppo commerciali. Tornando a noi, volevo affrontare un po' l'argomento Magic trattino Netrun, non versus, cioè contro, ma proprio quali sono in un certo senso le similitudini tra questi due giochi, se ci sono, stiamo parlando del gioco di carte più famoso del mondo, più bello per molti, più importante, e di un nuovo gioco inventato dallo stesso autore. Volevo chiedere a Guaina, che so che è stato un giocatore di Magic, ma non so a che livelli, se più o meno ha avuto la stessa passione che ha adesso per Netrunner, se ci fossero dei collegamenti tra i due giochi e quali. Allora, di collegamenti ce ne sono un paio, sostanzialmente molto sul bluff e le informazioni, l'importanza dell'informazione. Perché anche in Magic sapere cosa ha in mano l'avversario è importantissimo, e la stessa cosa vale per il runner contro la corporazione. Sapere cosa ha in mano, quali sono le sue possibilità al momento, ti dà l'idea di dove possono essere le agende. Cosa può stare a fare, anche solo il posizionamento dei ghiacci o da come mettono giù le carte, è una cosa che rivela molto. E giocando a Magic più o meno impari, anche perché quando la vedi la gente che è un po' titubante a fare una mossa, vuol dire che non è una cosa diretta che faresti subito, vuol dire che ha delle opzioni, vuol dire che non sa se è la mossa migliore, quindi puoi farti un'idea di quello che hai in mano. E questo vale più o meno per tutti i giochi di carte, e Netrunner non è escluso da questo. Infatti mi capita spesso di trovare agende quando gioco contro PA in mezzo a quella massa di remoti, appunto per come lo mettono giù. Si vede che metti una carta, viene proprio buttata sul tavolo, mentre un'altra ci va un po' più lentamente. Anche quello è un sintomo di che questa devo mettere giù con cautela, questa, ma sì, la butto giù, tanto è uno psychic field, quindi se ci salta sopra meglio. Sì, beh, è fondamentale leggere queste Sì, cose. per giocare piede avere una buona poker face, perché lì è tutto un bluff. Devi saper bluffare, saper mettere giù quel filo totic entanglement senza far capire che è un'agenda. Perché quando hai quello giù, più o meno hai vinto metà partita. Più o meno. Sì, oppure la casa dei coltelli. Sì, no, fare una casa dei coltelli. Quando c'è la casa dei coltelli contro, cioè, già lì diventa la partita da mediamente difficile, diventa estremamente difficile. Perché rubare una Fatal Eye sono quattro neti in sostanza. Anche se faccio un'incursione, rimanendo in tema, poi ti lascio continuare su Magic. Giocare contro Jinteki è sì difficile, però è fattibile. Insomma, si parte entrambi dal 50-50, e questo è il bello. Non ha un Sì. vantaggio così grande Jinteki, e non ce l'hai tu come runner, qualsiasi sia qualsiasi siano le tue abilità. Il punto è ragionare sempre cosa sei in grado di sopportare. Cioè, tu le carte le conosci. Se hai due avanzamenti su una carta, cosa può essere? Puoi prenderti 4 danni net da un jumbug, puoi prendertene 2 più 1 da un'agenda, adesso non mi ricordo il nome, quella che ti fa 2 danni quando E la... Esatto, dalla Fatal. Insomma, ragionare. Poi se mette con un machine 3 avanzamenti su una qualsiasi carta può anche essere uno snare. Però è ragionare un po' quale sia il tuo click di gioco, quale sia la tua possibilità di sopravvivenza o meno, e rifarti poi con le pescate successive. Quindi se ci sono carte scoperte, cioè carte coperte senza avanzamenti, si rischia sempre relativamente poco. E quindi si può anche tentare. Poi a voi sì. la Secondo scelta, insomma, non lo so. me runnare sugli 1 avanzamenti in PE è un obbligo, ma secondo me PE non è un buon mazzo solo perché non è stabile. Ci sono delle volte, perché dipende molto da quello che fa il runner. Se il runner sa giocarci contro, Esatto. è molto dura per PE vincere. Se il runner invece non sa giocarci esattamente bene contro, ha buone possibilità di vittoria, ma non è neanche detto, perché dipende molto Dal da dove va caso. lui, esatto, c'è un mazzo che non porterei. Tornando sull'argomento, più o meno la cosa informazione è la cosa più importante del collegamento tra Magic e Netrunner, perché poi sono due giochi molto diversi. Preferisco Netrunner soprattutto per la stabilità, perché in Magic molto va al caso, perché col fatto che la tua economy non sono i crediti che puoi farti in vari modi, ma sono le terre. Sì, se non vedi l'economy card in Netrunner, puoi cliccare per crediti e non sei proprio morto diretto solo per la pescata. In Magic, se non vedi le tue fonti di mana, hai già perso. Se perdi uno o due land drop all'inizio, hai già un piede nella fossa. E questa è una cosa, secondo me, di Magic è abbastanza brutta, perché ti lascia troppo al caso. Netrunner invece è molto più il gioco in sé che crea la partita e non la pescata. Perché mi è capitato varie volte di trovarmi in situazioni in cui io avrei vinto, ma il mio avversario non mi dava l'idea di aver vinto perché c'erano punti agenda negli archivi e io non ci andavo perché non credevo ci fosse niente. E perché in quel momento secondo me avevo di meglio da fare, tipo mungere il Nerve Agent fino a che la Corp non era costretta a purgare quei segnalini virus. O anche in Netrunner il dubbio che ti viene sempre è: tento o comunque mi preparo per il turno dopo, per due turni dopo, per esatto. tre turni dopo, cioè on kick, dimmi. La cosa più difficile che ho anch'io da fare è stabilizzarmi. Sono un giocatore molto aggressivo e difficilmente mi prendo un turno per stabilizzare il mio gioco. Normalmente una rana a turno la faccio, infatti giocare contro Tennin per me è una delle cose più facili al mondo. No, ma fai bene a fare una rana a turno, anzi bisogna runnare tanto, poi ovvio valuti tu le conseguenze in base al mazzo, ma se stai giocando contro un mazzo che hai capito non essere un tag and bag e ti rimane da vedere gli archivi con ultimo click, cosa fai? Ti prendi due crediti dal Magnum Opus, peschi una carta per prepararti il turno successivo, anche se magari la pescata si fa inizio turno, o vai a vedere? Quel dubbio lì ti rimarrà poi per sempre. Sì. Cioè per sempre, per la partita. Io il problema è che erano anche contro tag and bag, quindi... Quello è il mio grosso problema, erano troppo, e lo so anch'io. Ci sono delle partite che perdo perché... faccio una run di troppo che non avrei dovuto fare. E questo è quanto. Per il resto, come ho detto, Magic e Netrunner, a parte quello, sono due giochi totalmente diversi. E poi l'assenza in Netrunner delle one turn win è fantastica. Cioè ci sono, ma per quella di mid season Bale hai bisogno di 280.000 soldi, quindi... alla fine, se ha così tanti crediti, è colpa del runner che sta sbagliando qualcosa. Io non l'ho mai vista una vittoria di quel tipo. Si può, però si non può, sono mai riuscito a vederla. Cioè, io l'ho vista perché ho montato a uno dei miei amici di Sanzano un Cerebral Imaging con mid-season psicografici che chiude di o Vitruvius che si riprende le Scorched, la Scorched, o di Ares. Se presente cosa sì, fa. Sì, Ares è inutilizzato di solito, ma se lo porti sopra il 4-2, esatto. Ares è l'agenda più forte, è una delle più forti. Sì, gliel'ho visto fare anche a 7-8. Allora 7-8 carte da trasciare per il runner, sì. Sì, vinci. Sì. Però anche quello è un mazzo combo, non è facile da usare. E la cosa che ci va più vicino è l'Astro Train. Se io vedo NBN con un Astro... cioè, quello è stato l'errore che è stato quello si può sicuramente parlare di errore. Se per Jackson possiamo parlare di un po' sgravata ma comunque equilibrata, AstroScript è un errore grossolano a mio parere, perché non tanto per il segnalino che ti dà, perché è forte, il fatto che è una 3-2, ma assolutamente non può essere una 3-2 in nessun mondo. Una 3-1, una 4-2, sì, una 4-2 3... era bilanciata, 4-2 ci stava benissimo, 3-2 è in quella zona in cui la definirei quasi overpowered, quasi, alla fine ci puoi, non è comunque così forte da gridare al ban eccetera, secondo no, me così forte ci può no. stare, però è una di quelle carte che ti fa salire un po' i nervi, perché quando inizia l'astro train devi riuscire a chiudergli la mano. Il problema... e anche lì a volte non è abbastanza. Il cioè... problema è che dopo hanno visto questa cosa e cosa fanno? Fanno uscire Project Bill, che è una 3-2. Sì. Allora, tieniti come 3-2 degli NBN solo l'AstroScript. Le altre falle sì. 4-2, 5-3, 3-1. Basta. Hanno anche la 2-1 loro. E questo che... sì. Sì, hanno la combo perfetta. Fai Astro, Breaking News. Chi giocherà mai un'altra agenda NBN che uscirà in un datapack o in un altro? Penso nessuno, a meno che non sia un'agenda 2-3 e non 3-2. Non lo so, c'è la nuova 3-1, quella che deve uscire in Up and Over, credo, forse quella dopo, che secondo me ti ricordi ha il delle testo? Possibilità. È quella che quando la scorri ti installi e rezzi un upgrade o un asset dagli archivi, una cosa del genere. E... quella è molto forte, cioè ti dà un Sansana gratis in sostanza. È vero. C'è scritto quello che non è male. Secondo me uno slot è possibile, con Fast Track te lo puoi fare, e anche se la perdi non è la fine del mondo perché è una 3-1. È vero, con un fast track e un pilota già scorato e quella hai vinto la partita. Sì, ti sta regalando una Sansan, cioè se il runner spende 5 crediti per spaccartela, tu vinci hai in altro modo. Sì, hai fatto spendere 5 crediti a gratis, perché tu hai speso 3 crediti, hai fatto un punto agenda e hai risparmiato sostanzialmente 3 crediti e ti ha regalato una carta. Che Sansan regalata è una di quelle cose che non vorrei mai vedere. Quella è una delle agende che secondo me ci potrebbe stare. Non tante, 1-2 per al massimo. Anzi, 2 per è già un'esagerazione. 1 per, hai fast track per quello. E sì, per il resto, le altre agende NBN, tipo la 4-2 che ammazza una risorsa, connessione. Mi pare. Sì, cose del genere, orribile, ce ne sono un sacco. Non è male la 5-3 come effetto, anzi. Sì, però la 5-3 quella lì è... però è fortissima. In The World Is Yours devi mettercela dentro se lo giochi tag and bag. Sì, perché? Assolutamente. Perché una window te la fai, basta che ti arriva un tag per sbaglio, gli chiudi i conti e poi basta. Fai una 5-3, men che non si dica. È piuttosto comoda. E poi hai quel click lì che tu te lo giochi quando vuoi. Esatto. È pazzesco. Tornando quindi a Magic, le similitudini sono relative. Sono più nel modo di giocare delle persone. Sì. Esatto, sono più nel se giochi a Magic ti fai un po' le ossa sul capire come gioca una persona, se giochi a livelli abbastanza alti, si intende. E, però per il resto sono secondo me due giochi completamente diversi. Parlando invece a livello più economico, preferisci, è una domanda magari un po' stupida, ma preferisci un LCG come Netrunner o... la bellezza dello sbustare, anche se ti porta via i 4-5 euro ogni volta, è devo inevitabile. Veramente rispondere? Sì. Direi che è molto meglio l'LCG. Forse perché? Perché quando si hanno 15-16 anni ti godi lo sbustare, quando inizi i soldi a prenderli dal tuo portafoglio... No, lo odiavo uguale. Lo odiavi uguale? Sì, perché in Magic, soprattutto da quando la Konami ha iniziato a metterci le mani, perché... non so se lo sapete, ma la Konami ha vari azionisti della Wizard e praticamente tirano le stringhe loro e hanno messo una nuova rarità che è tipo la rara segreta di Yugi, e da quel punto in poi Magic è andato giù per la collina, perché ci sono, quando ti crei i mazzi ti servono delle carte che costano 50 euro l'una e me ne servono 4. Ok, quindi sostanzialmente non monti quel mazzo, più o meno funziona così, cioè ci sono mazzi che per essere competitivi hanno bisogno di una carta, quella carta costa, e non sto scherzando, 80 euro. E cioè, a quel punto lì stai creando, cioè, una spesa enorme. Netrunner, con lo stesso prezzo, comprati con 4 per di carte, ti fai, credo, 2 o 3 volte l'intera collezione. Anche perché... presi i 3 core set. Anche perché non è un discorso collezionistico su cui possiamo discutere, nel senso, vuoi la carta super rara? Boh, è giusto che tu la paghi. È proprio un discorso di possibilità di gioco. Sì, sì, esatto. Cioè, non è che c'è la versione rara e la versione mitica, no, c'è solo la versione mitica e te ti devi pagare i tuoi 80 sacchi per averla. Ed è una cosa insana, cioè non ha senso di esistere. Spero che cambino per Magic, poi a me non importa niente. È difficile perché comunque dipende solo poi dalle vendite, lo sai, sì, lo sai benissimo, sì, anche dipende, tu. Dipende poi dal proprio il market che si crea dopo, perché se giustamente una carta è forte e non è così comune, il prezzo sale. Il problema è che prima che venisse stampata questa cosa, questa nuova rarità, i prezzi erano abbordabili, cioè il massimo valore di una carta era 15-20 euro. E lì era già costoso, perché era già molto più costoso di Netrunner. Però era abbordabile, adesso è un suicidio monetario, invece. Diciamo che ciò che in Netrunner a livello economico non m'ha convinto, e penso non abbia convinto nessuno, è il fatto di costringere a doversi comprare 2-3 core set. Sì, quella cosa lì non l'ho capita quale strategia di marketing hanno fatto. Anche perché se poi compri gli altri data pack ti trovi 3 pair dell'identità. Esatto. Allora. Sì, 3 pair dell'identità, bellissimo. Oh, io sono contentissimo, anzi, le tengo tutte. È per fare le altre dart, no? Sì. Però sul corset l'hanno gestita un po' così, però Oh, ci può stare. È relativo, perché poi vai su internet, ti ordini magari quelle 3-4 copie singole che ti costeranno, sì, un euro, due, quello che è. Sì. E, in generale, poi Netrunner, penso sia così anche per gli altri LCG, ad oggi che sta uscendo appunto il terzo ciclo, si può giocare in modo competitivo anche avendo core set e 2, 3, 4 data, sì, pack dei vari cicli che ti interessano. Esatto, puoi tranquillamente mirare i tuoi acquisti per un singolo mazzo e giocare con quel mazzo che hai deciso di montare. Sei d'accordo, sì. Ci sono, se dovessi dire dei must buy, probabilmente è What Lies Ahead, Creation and Control, e sono indeciso tra tra Studi in Static e Trace Amount. E qua se uno si fa bene bene i conti magari su Amazon sono 40-45 euro. Sì, esatto. Due data e... Sì, che è una spesa veramente bassa per giocare a un gioco in maniera abbastanza competitiva alla fine con quei data pack. Oppure addirittura ti fai prestare le carte, dato che la community è ristretta, dato che le carte non hanno alcun valore, perché sì, è brutto da dire, per quanto le ami, te le fai prestare, ne ho prestate due al Pado l'altro giorno. Io, avendo preso tre core set, alla gente che piglia i core set gli servono i tre pair delle carte in due pair, io le regalo quelle. Ne sono rimaste poche, ho ancora quattro pair di tutte le carte più o meno, di tutte quelle che sono in due pair, quindi ne posso dare ancora una. Quindi niente, chiudiamo facendo i complimenti sia a Garfield, mi pare si chiami, che è riuscito a fare due giochi che funzionano pur essendo totalmente diversi, come ci hai spiegato tu, e sia a te, perché se su quattro tornei ne vinci tre di fila, sai bene anche tu che non è stato un caso, ma evidentemente qualcosa c'è dietro, anzi. Spero di incontrarti ai prossimi tornei, magari si pensava, lo anticipo un po' per tutti, magari quando uscirà questa puntata ci sarà già l'annuncio, di farne uno a Reggio nelle prossime settimane, alla Games Academy, quindi siete tutti invitati per la data e l'evento, poi seguite su Facebook. Quindi ti ringrazio. Grazie a te per avermi ospitato. E ci vediamo alla prossima puntata di Hostage, dove avremo il Paddo. Ciao a tutti, da Dennis e da Guaino. I've seen things you people wouldn't believe. Maintenance mode turned on. Jack out.